Buonasera e benvenuti. Abbiamo il piacere di stare insieme in casa e il piacere di seguire un Dio che è vivo. Il suo nome è Cristo Gesù, non è una favola, non è un'idea di uomini, è qualcosa che ha trasformato le nostre vite. Amen. Abbiamo questi due bellissimi banner, uno alla mia sinistra, l'altro alla mia destra, alti 4 metri, quant'è? 4 metri per 1,5, oramai da forse un paio di anni. Ed è una dichiarazione nostra. Gesù è vivo. Gesù è vivo. Gesù è vivo, non è rimasto morto su quella croce, lui è risorto ed è vivente e ha autorità di cambiare le vite. E se noi siamo qui stasera, se cantiamo, se facciamo delle preghiere a qualcuno che non vediamo, che non tocchiamo, è perché noi crediamo nel fatto che Gesù Cristo è vivo, perché lo percepiamo e lo sperimentiamo quotidianamente nella nostra vita. Chi è che può dirlo con me? È che è bellissimo seguire Gesù e che Gesù ha cambiato la tua vita. Posso vedere la tua mano? Che bello, il 99% di noi. Ed è così. E se siamo qui questa sera è perché amiamo Gesù, amiamo il suo insegnamento, vogliamo seguirlo, vogliamo conoscerlo meglio, vogliamo che lui sia guida della nostra vita, perché nessuno come lui sa meglio di lui come noi possiamo vivere la vita, la nostra quotidianità. Lui è l'unico che sa qual è il modo migliore di spendere le nostre giornate. È per questo che noi affidiamo a lui il nostro cuore, il nostro tempo, il nostro tutto, e abbiamo motivo di celebrare. Vero Elisa? Abbiamo motivo di celebrare. Oggi è il compleanno di Elisa e abbiamo da celebrare ogni nuovo anno che il Signore ci dà da vivere con lui, perché lui ha dato a noi letteralmente una nuova vita e la nostra quotidianità, i nostri mesi, i nostri anni che scorrono sono preziosi, spesi e vissuti con colui che è l'autore di vita. Gesù ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Una dichiarazione molto forte, ma è la realtà di fatto. Questo è quello che Gesù è, la nostra via, la nostra vita, la vera verità, se si può dire così, l'unica verità. E noi vogliamo seguirlo. Siamo qui questa sera perché vogliamo seguire Cristo Gesù e il suo insegnamento. Io ho fatto riportare questa lavagna che abbiamo utilizzato la prima domenica dell'anno. Vi ricordate chi c'era la prima domenica dell'anno e si ricorda il messaggio che ho dato? Ed era proprio un messaggio incentrato su quello che è l'approccio verso il futuro che ci sta davanti, il nuovo anno. E ci siamo chiesti insieme: per cosa vivremo in questo nuovo anno? E sappiamo benissimo che oggi e domenica prossima li abbiamo chiamati le Vision Sundays, le Vision Day, le Vision Morning, le Vision Evening, le Vision, non lo so, abbiamo dato tutti i nomi possibili, però sicuramente una parola è sempre rimasta in comune: Vision. Noi vogliamo avere visione, ci piace essere anche un po' americani e inglesi, però il vero scopo di questa serata e di domenica prossima è orientarci verso una visione specifica, perché noi non vogliamo essere una chiesa che è disorientata, non vogliamo neanche essere una chiesa che si ripete in una routine. Noi non siamo qui per essere dei religiosi, delle persone che vengono domenica dopo domenica, che fanno una liturgia, se ne tornano a casa, hanno delle buone abitudini. Noi vogliamo concretamente, sinceramente, in una maniera autentica, sperimentare Cristo, e vogliamo avere visione per il nostro futuro, anche perché la parola di Dio, la Bibbia, ci invita ad avere visione per il nostro futuro, ad essere orientati, ad avere degli obiettivi, avere una direzione specifica. E la nostra Chiesa in questo nuovo anno vuole seguire una direzione specifica. Non vogliamo essere una Chiesa disorientata. Amen. Ci piace questo? Ed è per questo che noi abbiamo pregato come scuola pastorale, io in modo particolare ho pregato tanto per questo nuovo mese, per questo nuovo anno, per chiedere al Signore, Signore, vuoi tu guidarci in un nuovo anno con degli obiettivi e una visione specifica per noi? E il Signore parla sempre quando tu gli fai una domanda, è vero? Se è la domanda giusta, naturalmente. Se fai la domanda giusta, lui risponde e lui è entusiasta di rivelare a ciascuno di noi il suo progetto di vita, lo scopo di vita che lui ha per noi. Per questo lui non rimane in silenzio e lui ha una visione per la nostra Chiesa, lui ha un proposito per il nostro nuovo anno e noi insieme lo vogliamo scoprire stasera parlando di una bellissima tematica e sono entusiasta di poter parlare di questa tematica, non vedevo l'ora di farlo, perché stasera parleremo d'inferno. Vero, vero, non sto scherzando. Nella preparazione ho detto, Signore, delle tante tematiche che potevi darmi, dei tanti versi che potevo analizzare della tua parola, proprio sull'inferno mi devi parlare, proprio dell'inferno vuoi che io parli alla Chiesa. Ed è così importante invece che noi riscopriamo che Gesù ha insegnato, ascoltatemi molto bene, nel 30% circa dei suoi insegnamenti lui ha insegnato sull'eternità. Sulla vita eterna, sulla vita dopo la morte, la vita dopo il soggiorno temporaneo che noi abbiamo su questa terra, nel 30% dei suoi insegnamenti, nel 50% delle parabole. Noi sappiamo che Gesù insegna con parabole e ne usa tante. Nel 50% delle parabole lui fa un esplicito riferimento, anzi la maggior parte di queste parabole parlano proprio specificatamente di inferno e di paradiso. Ed è per questo che è una tematica che dobbiamo affrontare, perché amiamo Gesù, lo vogliamo seguire e insieme vogliamo capire perché ha parlato a noi di queste cose, perché ci vuole parlare questa sera attraverso la tematica dell'inferno. Beh, un verso che noi abbiamo visto proprio quando abbiamo parlato di questa domanda e ci siamo posti insieme questa domanda è il verso che si trova in Colossesi al capitolo 3, versetto 2, che dice, ascoltatemi, aspirate alle cose di lassù. Questo è l'appello che la Bibbia fa a ciascuno di noi. Questo è l'appello di Dio a noi suoi figli. Aspirate alle cose di lassù, aggiunge, non a quelle che sono sulla terra. E quando noi guardiamo lassù, quando noi guardiamo in alto, inevitabilmente noi certamente vediamo Dio, noi vediamo Cristo, noi abbiamo una percezione degli angeli, abbiamo la percezione della gloria di Dio, del Creatore, del Dio onnipotente che Lui è al di sopra di ogni cosa, ma abbiamo inevitabilmente anche una percezione e uno sguardo verso due realtà specifiche, distinte e separate, cioè l'inferno, sofferenza eterna, il paradiso, gioia perenne. Questo è quello che la Bibbia ci insegna, non è una mia invenzione. È quello che Gesù insegna e insieme andremo a leggere stasera una di queste storie che Gesù racconta nel Vangelo di Luca, capitolo 16, dal versetto 19. Lo leggeremo da una versione di Bibbia in lingua un po' più contemporanea, più fluida, però vi invito a rileggere questi versi a casa. Leggete con me questa storia. C'era una volta. Gesù inizia, anche lui. Con c'era una volta. È bellissimo. Funziona, hanno copiato tutti da Gesù. Funziona perfettamente. Gesù era un comunicatore eccellente. Gesù sapeva attrarre l'attenzione, ma noi dobbiamo renderci conto che se Gesù era un abile comunicatore è perché il suo messaggio era talmente importante che lui voleva l'attenzione delle persone, voleva catturare l'attenzione delle persone. E lui vuole catturare la tua attenzione stasera, non vuole che tu sia distratto, vuole che tu ascolti questa storiella per dare attenzione a quello che è l'insegnamento che si può trarre da questa storia. C'era una volta un uomo ricco, portava sempre vestiti di lusso e costosi e faceva festa ogni giorno con grandi banchetti. Questo è il primo verso. Questo verso, se non lo analizzate, se possiamo essere sinceri fra di noi, è esattamente ciò a cui ogni uomo su questa terra aspira. Quando la Bibbia dice non aspirate alle cose di questa terra, beh, le cose alle quali l'uomo aspira su questa terra sono proprio questo: lusso, benessere, salute, gioia, festa, banchetti, divertimento. Infatti, se tu accendi la televisione, qualsiasi prodotto cercano di venderti, te lo presentano sempre in questa cornice. Un nuovo cellulare? Beh, stranamente un nuovo cellulare ti viene presentato sempre in un contesto di colori, di festa, di gioia, di lusso. Una nuova macchina, un nuovo qualsiasi prodotto, anche una nuova giacca. Per dirla tutta, anche lo spazzolino da denti o il dentifricio ti viene presentato in una... Avete mai visto una pubblicità dove il dentifricio ti viene presentato in una baracca con un uomo che è vestito con degli stracci? Mai! C'è sempre quest'uomo muscoloso e fighissimo che va nel suo bagno, che è quanto è il doppio di casa mia, letteralmente. Ed è lì con il suo spazzolino altrettanto lussuoso, perché anche lo spazzolino da denti, il dentifricio, deve essere lussuoso. Tutto gira attorno a questo imbroglio, a questa illusione che la vera gioia sta nell'avere lusso, nell'avere festa, nell'essere ricchi su questa terra. Nulla in contrario contro queste cose, ma Gesù ci sta mettendo in guardia su quella che è una realtà molto, molto più importante. Quindi andiamo avanti nella lettura di questa storia. C'era anche un povero, un certo Lazzaro, che si metteva vicino alla porta del suo palazzo, del palazzo del ricco. Era tutto coperto di piaghe e chiedeva l'elemosina. Aveva una gran voglia di sfamarsi con gli avanzi dei pasti di quel ricco. Perfino i cani venivano a leccargli le piaghe. Un giorno il povero Lazzaro morì e gli angeli lo portarono accanto ad Abramo nella pace. Poi morì anche Lomorico e fu sepolto, andò a finire all'inferno e soffriva terribilmente. Alzando lo sguardo verso l'alto, da lontano vide Abramo e Lazzaro che erano con lui. Allora gridò: «Padre Abramo, abbi pietà di me, di' a Lazzaro che vada a mettere la punta di un dito nell'acqua e mi rinfreschi la lingua». Pensate alla disperazione di questo uomo. Nella sua disperazione cerca di chiedere il minimo possibile, il minimo indispensabile, almeno una goccia. Sta facendo elemosina per una goccia che gli possa rinfrescare la lingua. «Io soffro terribilmente in queste fiamme». Ma Abramo gli rispose: «Figlio mio, ricordati che durante la tua vita hai già ricevuto molti beni e Lazzaro ha avuto soltanto sofferenze. Ora invece lui si trova nella gioia e tu soffri terribilmente. Per di più, tra noi e voi c'è un grande abisso. Se qualcuno di noi vuole venire da voi, non può farlo. Così pure nessuno di voi può venire da noi». Ma il ricco disse ancora: «Ti supplico, padre Abramo, almeno manda Lazzaro nella casa di mio padre, perché ho 5 fratelli e vorrei che Lazzaro li convincesse a non venire anche loro in questo luogo di tormenti». Abramo gli rispose: «I tuoi fratelli hanno la legge di Mosè e gli scritti dei profeti». In altri termini, i tuoi fratelli hanno accesso alla parola di Dio, alla Bibbia. Questo è quello che Gesù sta dicendo. Il popolo, la società ha accesso alla Bibbia, alla verità. Li ascoltino. Ma il ricco replicò: «No, ti supplico, padre Abramo, se qualcuno dei morti andrà da loro, cambieranno modo di vivere». Alla fine Abramo gli disse: «Se non ascoltano le parole di Mosè e dei profeti non si lasceranno convincere neppure se uno risorge dai morti». Incredibile, Gesù sta facendo esplicito riferimento a se stesso, perché lui risorge dai morti e lui non è riuscito a convincere tutti. Probabilmente qui c'è qualcuno che è scettico, qualcuno che non crede. Gesù è colui che è risorto e viene a dirci che lì le fiamme dell'inferno ci sono reali, c'è una sofferenza tremenda e noi abbiamo la possibilità di salvarci. Che cos'è l'inferno? Beh, partiamo da quella che è la concezione degli uomini. Molti degli uomini credono che morendo non ci sia niente dopo la morte. Nulla. Con la morte fisica c'è anche la morte spirituale, tutto finisce lì. C'è poi chi crede che in fin dei conti, e questo vale anche per i cristiani molto spesso, tutti, bene o male, dopo che moriremo, ci sarà un modo per arrivare in un posto migliore. Ci sarà per tutti accesso a una vita eterna migliore. Perché? Perché il nostro Dio è buono, perché il nostro Dio è misericordioso, Lui è pieno d'amore ed escludono attributi importantissimi di Dio, cioè la sua giustizia, la sua santità, il suo essere giusto e leale ed essere fedele a quella che è la sua stessa parola data, alla sua legge, ai suoi comandamenti, e il mondo intero è in disubbidienza nei confronti dei comandamenti di Dio. Il mondo intero disubbidisce a Dio. La parola di Dio dice che non c'è nessun uomo che sia giusto. Tutti abbiamo peccato e siamo privi della gloria di Dio. Questo è quello che la Bibbia dice. E quindi molti però si cullano, a volte andiamo nei funerali ed è difficile che in un funerale, in una cerimonia tale, ci venga presentato l'inferno. Si parla sempre di una condizione migliore, si prega per una condizione migliore. C'è stata addirittura l'invenzione del purgatorio. È risaputo che il purgatorio è un'invenzione degli uomini che risale al Medioevo. Nel Medioevo gli uomini hanno inventato questo posto perché in un qualche modo ci dà speranza avere un posto nel quale abbiamo ancora la possibilità di riscatto. Così che se non crediamo nell'aldilà, arriviamoci prima e poi capiamo e una strada la troveremo per arrivare al Signore. Una strada la troveremo per arrivare al paradiso. Qualcuno intercederà per noi, qualcuno ci darà la possibilità di fare un percorso e riscattarci dei peccati, della disubbidienza e della nostra ribellione a Dio. Altri credono che dopo la morte ci si reincarna in altre forme di vita. E quindi se non ce l'hai fatta bene da uomo, magari ce la puoi fare meglio da cane. E se poi non ce la fai bene da cane, magari in una pianta, in un aloe, no? Perché magari che questa è una pianta che va di moda, è benefica, no? Allora dici, Signore, un giorno diventerò questo aloe e quindi mi riscatterò di tutte le mie impurità perché farò solo del bene nella mia esistenza e poi potrò venire nel paradiso. Chi crede nell'inferno è una buona... un buon numero di persone, sapete? Soprattutto nella nostra cultura, nella nostra società, se fermate qualcuno, se noi dovessimo fermare in questo momento un qualsiasi passante e dovessimo chiedere, ma tu credi nell'inferno, nel paradiso, c'è una buona, buonissima probabilità che la risposta sia sì, io ci credo. Il fatto è che la stragrande maggioranza delle persone che crede nell'inferno crede anche che non ci finirà mai. Vero? Perché in fin dei conti pensiamo che l'inferno sia un posto che Dio ha prestabilito per Satana, per i suoi angeli e per tutta quella serie di persone davvero, davvero molto, molto malvagie. I terroristi, coloro che hanno fatto questi peccati clamorosi contro l'umanità, i pedofili, i mafiosi, tutti coloro che hanno abusato. Allora per loro noi riteniamo che sia giusto il giudizio di Dio di mandare loro, un Hitler, all'inferno. Ma non noi. Noi in fondo siamo persone buone. Noi non abbiamo mai ammazzato nessuno. Noi non abbiamo mai fatto male a una mosca. Non sia mai, magari è rincarnato qualcuno nella mosca. E quindi la nostra concezione, il nostro approccio a questi tipi di discorsi è completamente distorto rispetto alla verità biblica che Cristo ci presenta Sapete cosa dice Gesù? Gesù dice che il paradiso è un posto, è una destinazione permanente. Non è solo vero in questa storia, è una verità che ci viene presentata ogni qualvolta Gesù parla dell'inferno, ogni qualvolta la Bibbia ci presenta dell'inferno, ci parla di una destinazione permanente. Non c'è possibilità di rifarsi, c'è un abisso, non c'è la possibilità di passare da un posto all'altro. Non esiste il purgatorio. La parola di Dio ci mostra che l'inferno è un posto nel quale stanno andando in molti. Posso leggervi le parole di Gesù? Gesù dice in Matteo, queste sono le parole di Gesù, non sono mie. È Gesù che dice, entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta, è spaziosa la via che conduce alla perdizione. Ascoltate ora, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. L'inferno non è un posto per pochi. L'inferno non è un posto per i malvagi, i più peccatori, i più cattivi. L'inferno è un posto per tutti noi, perché noi meritiamo questo nella nostra disubbidienza. Cristo Gesù è venuto, come c'è scritto in Giovanni 3,16, affinché noi possiamo ricevere la vita eterna, perché Lui sulla croce ha portato la causa della nostra inimicizia con Dio, i nostri peccati. Lui dice, Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. E poi aggiunge, infatti Dio non ha mandato il suo figlio per giudicare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Quindi Gesù è venuto per salvare, Gesù è venuto per essere quell'alternativa, quel braccio teso per raccogliere persone che sono su quella via spaziosa, che stanno varcando quella porta larga per afferrarli e portarli nella via stretta e condurli alla salvezza eterna, in paradiso, nella gioia eterna. E questo è quello che è la nostra sicurezza ed è la nostra più grande esperienza di amore che abbiamo ricevuto da Dio, si chiama grazia, il dono immeritato di Dio. Il fatto che noi non possiamo meritare la grazia di essere, di prendere quel bivio e allontanarci dalla via larga, ma in Cristo Gesù, per quello che Lui ha fatto, e credendo in Lui abbiamo la possibilità di vivere la vita eterna. Ora, Gesù perché parla quindi di questo ricco? Beh, perché se tu credi in Cristo Gesù, se hai fede in Lui, la tua vita cambia. Ed è Gesù che attraverso questa storia, in altri termini, ti sta dicendo per cosa stai vivendo? Per cosa stai vivendo? Per ricchezze terrene, per ricchezze temporanee, per te stesso, per i tuoi bisogni, per la tua gioia? O stai guardando oltre, all'eternità, ai bisogni degli altri, per fare delle tue ricchezze una occasione per benedire altri, per permettere ad altri di conoscere Cristo Gesù, per farti tesori nei cieli? Questo è il motivo per il quale Gesù racconta questa storia. Qualcuno crede che l'inferno sia un posto nel quale poter vivere la gioia dei piaceri del peccato. È vero? È assurdo, ma nei videoclip, in alcune storie che leggi, anche proprio nella testimonianza di alcune persone, molti dicono io voglio andare all'inferno, perché immaginano quello come un posto nel quale poter sperimentare i piaceri del peccato. Quello che Gesù descrive quando parla dell'inferno è un posto di solitudine. Noi vediamo quest'uomo che è solo ed è tormentato nelle fiamme. Un posto di sofferenza. Perché le fiamme? Perché se hai sperimentato una bruciatura, sai quanta sofferenza una bruciatura porta. Prova a immaginare una bruciatura perenne. E Gesù descrive questo come un luogo dove la fiamma non si spegne e dove la sofferenza non cessa. In altri contesti Gesù parla di un posto nel quale c'è pianto e stridor di denti. Io non so se avete mai visto una persona soffrire a tal punto da stridere i propri denti e consumarli. Questa è l'immagine che Gesù sta dando del posto terribile che è riservato a coloro che rifiutano di credere in Cristo Gesù e rifiutano di ricevere perdono per la propria condizione e per i propri peccati. Gesù fa tutto questo non perché è venuto per giudicare, l'ho citato prima il verso, lui racconta questa storia, dice queste cose perché vuole allarmarci di una realtà che noi non possiamo vedere, ma non per questo non esiste. Il fatto che tu non conosci che cosa c'è nella galassia più distante di questo infinito, che c'è nello spazio infinito nel quale viviamo, Non fa di quella galassia qualcosa che non esiste, è lì, è presente. Come puoi credere in queste cose? Avendo fiducia in colui che è l'unico uomo, fino a prova contraria, che è morto per te, che ti ama a tal punto da aver sacrificato completamente la sua vita e aver accettato di essere torturato e appeso a un legno per la tua salvezza. Se questo non ti basta, non so che altro serve. Per questo Gesù dice: Se non credono nella parola di Dio, non crederanno neanche in qualcuno che risuscita dai morti. E noi, Chiesa di Cristo Gesù, noi crediamo nel Cristo che è risorto. Noi crediamo che quello che Lui ha fatto non è vano per le nostre vite. Noi crediamo che quello che Lui ha patito lo ha fatto perché ci ama a tal punto e tutto ciò che Lui ha insegnato è verità. Noi crediamo nell'inferno, fratelli e sorelle. Ed è per questo che vogliamo vivere una vita che è modellata e vivere una visione per il nuovo anno che è modellata non dalle cose terrene, non dall'avere un faro in più, un programma in più come chiesa, un'attività più bella, qualcosa che ci può accomodare meglio. Noi vogliamo investire, noi vogliamo fare alleanza, noi vogliamo essere un corpo unito per fare ricchezze nei cieli. E sapete qual è la ricchezza più grande nei cieli? Il tuo fratello, la tua sorella, tua madre, tuo padre, i tuoi figli salvati per l'eternità. Questa è la ricchezza per la quale noi ci vogliamo muovere, questa è la visione per la quale noi vogliamo vivere come Chiesa ancora in quest'anno. Gesù è venuto e ha raccontato questa storia perché lui è tanto interessato a salvare coloro che sono poveri, miserabili nella sofferenza e per dare loro speranza eterna. Perché per quanto la tua vita, la nostra vita su questa terra può essere un inferno, questo inferno finirà. E comincerà una gioia perenne. E sapete una cosa? Avrei tanta voglia di predicare sul paradiso, ma non ho il tempo. Ma il paradiso è un posto davvero molto, molto bello, perché ci viene descritto come un posto dove non c'è lacrima, dove non c'è sofferenza, dove non c'è malattia, dove non c'è nessun tipo di disagio, dove c'è una pace perenne, una situazione gloriosa alla presenza del Padre. Gesù è venuto, ha raccontato queste storie perché è tanto interessato ai miseri, ai poveri, ai sofferenti, quanto ai ricchi che sono ciechi e vivono nella loro cecità, quanto a noi che inseguiamo le cose materiali, i beni, la soddisfazione terrena. Gesù vuole allarmarci e dirci: non vivere per queste cose, passeranno un giorno, fatti i tesori nei cieli. Gesù è venuto non solo perché vuole salvare coloro che sono stati abusati, coloro che sono stati imbrogliati, ma Gesù ha un cuore, un desiderio di salvare anche coloro che abusano, coloro che imbrogliano. Gesù è venuto per la salvezza dell'intero mondo, di ognuno. Ed è questo il cuore che vuole battere nel nostro petto, un cuore per i perduti. Noi in questo anno, più che mai, vogliamo impegnarci a raggiungere coloro che ancora non conoscono la verità. Perché ci sono troppe persone che sono abusate e non hanno incontrato Gesù e le cui ferite fanno male e possono ottenere guarigione in Cristo Gesù. E ci sono troppe persone che abusano, perché non sanno come altro trovare gioia in questa terra, se non scavalcare altri, sfruttare altri e cercare di ottenere una felicità che è temporanea, ma è peccaminosa. Gesù è venuto per salvare ognuno, per salvare coloro che sono imbrogliati ed defraudati, tanto per chi imbroglia, chi ruba e chi inganna. Gesù è venuto per salvare coloro che sono disorientati e che hanno tante domande. Forse tu questa sera sei uno di questi. Ma Gesù è venuto anche per coloro che credono di aver capito tutto e che hanno convinzione che un giorno ce la faranno e che dopo questa vita terrena, in un qualche modo, avranno una esistenza piacevole in eternità. Gesù è venuto per coloro che hanno dipendenze, per coloro che sono schiavi da dipendenze di ogni tipo, e Gesù è venuto anche per coloro che promuovono le dipendenze a proprio vantaggio, per speculare, per sfruttare. Gesù è un Dio d'amore e lui è morto per darci la salvezza eterna. Gesù non è morto per darci un soggiorno terreno migliore. E spero che mi comprendete quando dico questo. Perché è vero, fratelli e sorelle, Gesù è venuto per darti consolazione, per darti un posto di lavoro migliore. Gesù è venuto per darti la sicurezza nella preghiera di poter chiedere a Lui ogni tipo di richiesta e avere esaudimento per le tue richieste. È venuto per questo, c'è scritto nella parola di Dio. Ma non è venuto principalmente per questo. Lui non è morto affinché noi potessimo avere un soggiorno terreno migliore, per banchettare, avere gioia e vivere nel lusso. Lui è morto per darci la salvezza e la speranza eterna, per liberarci da quel destino tremendo che si chiama inferno. E la Chiesa non può predicare un Vangelo parziale, dove incoraggiamo e pompiamo le persone a credere: Dio ha il meglio per te, sarà una vita meravigliosa, il 2018 sarà senza sofferenze perché Gesù è con te. Forse non sarà così. Forse in quest'anno avrai sofferenze, forse in quest'anno dovrai passare delle cose difficili. La consolazione che hai è che Cristo è sempre con te e tu ce la farai. E la tua consolazione ancora più grande e maggiore è che le sofferenze che puoi vivere su questa terra sono temporanee e ti aspetta un'eternità di gloria nella gioia del Padre. L'Apostolo Paolo, per spiegare tutto questo, ha parlato di cosa era disposto a fare, letteralmente farsi sbranare dalle belve. Perché lo sappiamo bene, la maggior parte dei cristiani di cui leggiamo nella Bibbia sono stati cristiani disposti a morire, ad essere ammazzati, torturati per la verità di Cristo Gesù. E attualmente in molte parti del mondo ci sono cristiani che per quello che credono si fanno volentieri incarcerare pur di non rinnegare la verità nella quale credono. Si lasciano torturare, ammazzare, perdono la possibilità di vivere ancora su questa terra, ma perché hanno una speranza maggiore. L'Apostolo Paolo dice in Efesini, no scusate, in Corinti, in 1 Corinzi 15 al versetto 32, dice questo, ascoltatemi ancora. L'Apostolo Paolo, un martire della fede, un eroe della fede, un uomo al quale io aspiro, spero che anche tu aspiri. Lui scrive a Efeso, una città reale, un posto reale, a Efeso. Ero pronto a lottare contro le bestie feroci. Bello, l'Apostolo Paolo non era pronto a farsi sbranare, voleva lottare con le bestie feroci. Almeno ci devo provare a non farmi sbranare. E poi aggiunge, se l'avessi fatto solo per motivi umani, quale vantaggio ne avrei? Perché se i morti non resuscitano, ovvero se non c'è una vita dopo questa vita, dopo questo soggiorno terreno, aggiunge Paolo, allora mangiamo e beviamo perché domani moriremo. Apostolo Paolo dice: io sono stato disposto, sono disposto, sono disposto a dare tutto me stesso, a morire per Cristo, morirò per Cristo, mi lascerò sbranare anche dalle bestie, ma lo faccio perché ho una convinzione, e la mia convinzione è che c'è una vita eterna che mi aspetta e un premio celeste eterno del quale io potrò godere per l'eternità. E sapete una cosa? Quando noi andremo in cielo, in paradiso, e incontreremo l'apostolo Paolo, lui sarà riconoscibile. Sapete perché? Non perché noi lo riconosceremo, perché non sappiamo come è fatto, non abbiamo un'immagine di lui, ma perché avrà una bella corona e sarà in qualche modo rivestito di tanti premi celesti, perché la parola di Dio parla di premi, di tesori nei cieli. E si vedrà la sua gioia, e si vedrà quanto è valsa la pena tutto quello che ha vissuto. E poi andremo l'apostolo Paolo a dirgli: Paolo, raccontaci delle storie che hai vissuto su questa terra. E sapete lui che cosa ci risponderà? Sai, sono passati 2000 anni, e da 2000 anni sto facendo festa, da 2000 anni me la sto spassando alla grande. Sai, non me li ricordo neanche più quei dolori, sai, non mi ricordo neanche più quelle ferite, sono state così breve, così distanti. Questa è l'eternità. Che cos'è? Che cosa sono i nostri 70, 80, 100 anni? Ben venga per te i 125 che promette Berlusconi. 125 anni di vita. Che cosa sono però a confronto di 2000 anni, 10.000 anni, 100.000 anni, milioni di anni? Che questa è l'eternità. Ho letto una storia di cronaca di una coppia in America. Una coppia che hanno trovato morta nell'abitacolo della loro macchina, perché sono stati investiti da una bufera di neve. Questa coppia è morta per il freddo, e prima di morire la donna ha cercato di scrivere una nota, e quello che hanno trovato, quello che lei ha potuto scrivere, cosa di molto triste, lei ha cominciato a scrivere: io non voglio morire così. Questo è tutto quello che hanno trovato. E sapete qual è la parte più triste di questa storia? È che a poche decine di metri c'era un autobus che è stato investito dalla stessa bufera di neve. Però il loro motore ha continuato a girare, e loro sono rimasti al caldo, e a tal punto che loro erano dei turisti. In quella notte loro si sono divertiti, hanno bevuto, hanno danzato, hanno passato una nottata divertente, e a pochi metri di distanza c'era una coppia che moriva, e loro non lo sapevano. Io prego che questa non possa essere l'immagine della Chiesa. Che noi stiamo qui a cantare, a danzare, a sapere che abbiamo l'eternità, a sapere che Gesù provvede per noi, che possiamo presentare a Lui i nostri problemi, e non ci curiamo del nostro vicino di casa, del nostro condominio al quale torneremo stasera, dei nostri familiari più stretti. Avete letto con me la storia? Il ricco si è preoccupato, una cosa buona ha fatto. Una sola cosa buona leggiamo di questo ricco. Per tutta la durata della storia è stato un arrogante, un egocentrico, fino all'ultimo ha continuato a comandare a Lazzaro e a pretendere delle cose e avere il diritto di sapere meglio che cosa bisognava fare. Ma una cosa l'ha fatta bene, l'ha vista bene. Per la prima volta noi leggiamo che questo ricco comincia a preoccuparsi per gli altri e pensa ai suoi 5 fratelli che non sanno della realtà che lui sta vivendo. E io mi chiedo, dove sono i nostri parenti? Dove sono i nostri figli? Dove sono i nostri genitori? Sanno della verità? Sanno della salvezza eterna o non lo sanno? Penso ai nostri colleghi di lavoro che domani incontreremo di nuovo, i nostri compagni di banco. Loro sanno o non sanno? Perché sapete una cosa? Noi siamo ambasciatori di Cristo e forse l'unica opportunità che queste persone hanno di essere afferrate da Cristo nella larga via che stanno percorrendo per essere tirati fuori e portati nella via stretta nella quale noi ci troviamo, noi pochi. Per cosa vogliamo vivere in questo nuovo anno? Io ho un'idea, che ci impegniamo a creare delle alleanze per conquistare tutti coloro che ancora non conoscono Cristo, come non abbiamo mai fatto prima d'ora nella storia della nostra Chiesa. Io ho un'idea, l'idea di pregare insieme, supplicare che Dio ci dia l'opportunità di parlare di Cristo Gesù con franchezza e liberamente ai nostri parenti, ai nostri vicini, ai nostri colleghi di lavoro. Io ho un'idea che noi uniamo le nostre forze, anche quelle finanziarie attraverso Dono Perché Amo, per investire per il regno di Dio. Niente di quello che raccogliamo va in tasca a qualcuno. Noi vogliamo investire per programmi, per progetti, per attività, affinché le persone lì fuori ascoltino quello che noi viviamo costantemente. Questa è la mia idea. Vuoi allearti con me? Vogliamo allearci insieme in questa battaglia per vedere ancora più persone salvate, ancora più persone passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Insieme lo possiamo fare e insieme siamo chiamati a fare, perché siamo il corpo di Cristo, ambasciatori suoi, chiamati a portare avanti la missione che lui ha cominciato 2000 anni fa. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Voglio chiedere a te di chiudere i tuoi occhi. Dovunque ti trovi in questa sala, chiudi i tuoi occhi, concentrati su Gesù. E se questa sera dici, io voglio salvezza attorno a me, io voglio vivere per delle ricchezze eterne, io voglio vedere i miei familiari salvati, io voglio vedere i miei amici salvati, vicini di casa salvati, allora ti chiedo di alzare le tue mani in questo momento e vogliamo unirci in preghiera. Vogliamo chiedere a Gesù che ora, come mai prima d'ora lui possa aprire porte. Forse tu ci hai provato tante volte, forse sei stato deluso, forse ti hanno rigettato, forse ti hanno preso per pazzo, ma questa è la pazzia migliore per la quale vivere. E io voglio unirmi a te in preghiera affinché questo possa essere un anno nel quale insieme conquistiamo. Signore Gesù, tu vedi le nostre mani arrese a te in alto, ma ancora di più tu vedi i nostri cuori, e noi vogliamo dirti, Gesù, che vogliamo conquistare i nostri amici, i nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini di casa, i nostri parenti. Vogliamo che loro siano conquistati e presi e tirati fuori, strappati via da quella strada larga, e che loro possano cominciare a camminare nella strada stretta, conoscendo te, avendo consapevolezza che c'è un'eternità davanti, che questo soggiorno terreno è temporaneo, è breve ed è illusorio. Io prego, Padre, affinché ciascuno delle persone che noi rappresentiamo in questo luogo abbia un'opportunità di salvezza in te, possa conoscere la verità che li renderà liberi. Alleluia. Amen. Io voglio incoraggiarti, come pregavo, se sei rimasto deluso, se hai avuto un rifiuto, hai avuto un rigetto, ricordati, anche Gesù ha passato questo, tal punto che è stato messo sulla croce per questo. Non lo hanno ascoltato, non lo hanno accettato. Sii disposto a pagare questo prezzo, ma parla della verità, condividi la verità e porta salvezza, perché questa è la ragione migliore per la quale vivere. Mentre manteniamo i nostri occhi chiusi e un'attitudine di preghiera, io voglio dire a te che questa sera magari non hai la certezza e la sicurezza di aver avuto il perdono dei tuoi peccati. Letteralmente non sai dove andrai a finire, non sai neanche se credi nell'eternità, però però percepisci che Gesù è qualcuno che può aiutarti e può tirarti fuori da un passato che ti ha visto protagonista e al centro di tutto, e dove hai avuto tante delusioni nel cercare di trovare la gioia nelle tue forze. Gesù è qui per dirti: io sono la vera gioia per te, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. È Gesù stesso che dice: io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita in abbondanza. Se quindi questa sera dici: io voglio Gesù, io voglio seguirlo, io voglio che Lui prenda il mio cuore, io voglio che Lui perdoni i miei peccati, puoi includere me in questa preghiera, allora ti chiedo, dovunque tu ti trovi, di alzare la tua mano in questo momento. Alza la tua mano in cielo e voglio pregare per te dovunque ti trovi. Grazie, grazie per la vostra sincerità, la vostra apertura. Le domani dappertutto in questo luogo. C'è ancora qualcuno che dice: sì, io voglio il perdono di Gesù, voglio un nuovo inizio con Lui, voglio credere in quello che Lui ha insegnato. Alza ora la tua mano. Grazie Gesù, grazie anche a te per il coraggio. Puoi abbassarla ora e voglio invitare tutti noi a pregare questa preghiera, ma in modo particolare te che hai alzato questa mano, vuoi ripetere con me questa preghiera? Perché vorrei che tu stesso facessi questa preghiera a Gesù. Quindi ripeti con me: Signore Gesù, ti chiedo di perdonare i miei peccati e di darmi un nuovo inizio. Ti prego Gesù di darmi la vita eterna. Gesù, non voglio andare all'inferno, io voglio la vita eterna. Ti chiedo di perdonare tutti i miei peccati e darmi un nuovo inizio, e di essere la mia guida, il mio maestro. Fatti conoscere perché voglio sperimentarti. Amen, amen, alleluia. Grazie Gesù. Gesù, io prego per un 2018 meraviglioso, dove ci rendi protagonisti di tante conquiste e tante ricchezze nei cieli. Io prego per la nostra Chiesa che possa aumentare la propria influenza per portare più persone alla conoscenza di chi Tu sei. Padre, noi vogliamo vedere Modugno salvata. Signore Gesù, noi vogliamo vedere questa provincia salvata. Noi vogliamo questa regione salvata per la gloria Tua, Gesù. Noi riconosciamo che il male peggiore per l'Italia non è una pessima politica o un problema economico, ma il male peggiore di questa nazione è il fatto che non ha Te. E Signore Gesù, noi preghiamo che in questo nuovo anno Tu ci possa dare grazia di raggiungere questa nazione, di portare salvezza in questa nazione, di aumentare la nostra influenza per vedere più persone salvate nel Tuo nome, Cristo Gesù. Amen. Se credi in questo, ripeti con me: amen. Amen. Amen. Vogliamo lodare ancora il Signore insieme.